Allora, 19:57, torniamo in diretta con Cronache di Regime. E ora, come detto prima, ci facciamo una chiacchierata con una compagna per capire un po' cos'è successo a Milano settimana scorsa, riprendendo un po' il filo della discussione riguardo sgomberi, occupazioni e resistenze varie. Dopo, come detto, ci sposteremo a Firenze, ma intanto parliamo di una situazione di cui avevamo già discusso anche nelle puntate precedenti. Ciao, pronto, ci senti? Ciao, ciao a tutti e a tutte. Ciao, Ciao, ciao, sì. buonasera, benvenuta a Cronache di Regime. E allora, niente, guarda, no, non ti faccio domande, come mi hai minacciato precedentemente. No, dai, scherzo, se ci vuoi un po' spiegare cos'è successo sabato in una determinata zona di Milano che a quanto pare avete molto a cuore. Ok, allora, sabato appunto ci siamo ripresi casa, una casa nuova, molto spacchiosa. Se volete venire a trovarci e a darci una mano per qualsiasi cosa, siete tutte benvenute. L'abbiamo presa in Bovisa, che comunque è una zona che ci piace e dove ci conoscono già. E niente, in realtà volevamo già, al di là della possibilità appunto di venirci a trovare quando vi pare, anche solo a fare un giro, a darci una mano, a farvi due chiacchiere, volevamo lanciare già un'iniziativa per domani della libreria anarchica Nancy, che era la libreria che avevamo prima in Via Breda, e quindi vogliamo portare avanti il progetto della libreria e vorremmo fare questa chiacchiera informale prendendo spunto da una pubblicazione abbastanza recente che si chiama Tra i due fuochi, che è una raccolta provvisoria di testi anarchici scritti da degli anarchici e delle anarchiche da Ucraina, Russia e Bielorussia. E volendo si può trovare e scaricare su www.autistici.org/distrozione/tra-2-fuochi/, che comunque è una buona fonte per trovare anche altre zine interessanti. E niente, vogliamo aprirla con un aperitivo alle 18, poi ci sarà la discussione intorno alle 8, sempre con la puntualità che non ci contraddistingue, e poi lanciare una cena bella vita a chi va, a chi non va, per rimanere un po' con noi, conoscere un po' meglio lo spazio. E basta, questo lo vorremmo fare già domani, martedì. Quindi start alle 18. Ok, allora io domani invece con la puntualità che solitamente mi contraddistingue, non a primavera perché sono allergico e muoio a causa pollini, alle ore 18 mi presenterò su. Allora, comunque parlavamo, per chi non l'avesse capito, delle compagne e dei compagni e dei compagni di casa Brancaleone, che appunto sono stati sgomberati 2 settimane fa e hanno rioccupato Ah, ok, non l'ho detto. in via Enrico Cialdini. No, vabbè, però comunque si capiva. E la libreria Nancy invece ha la nuova sede in via Giovanni Zambelli. Questa cosa qui volevo capire, c'è la No, no, differenza. no, È no, la sempre tutto in via libreria Zambelli. è tutto. No, è in via Cialdini. Ok. La nuova libreria Nancy ha sede qua a casa nostra, in via Cialdini 11. In realtà per ora una sede vera e propria non ce l'ha, la dovremmo costruire. Sì, Cioè, perché su spazio una ce l'è, locandina, dobbiamo no, pensare. perché su una locandina che è girata, questo vabbè, te lo dico pure, era girata da oggi nella Ok. nuova sede di via Giovanni Zambelli, quindi forse. Ok, penso sia stato un errore del grafico. Ok, quindi facciamola Ok. cambiare, va bene, vedi, la Sì, diretta serve lo sempre a qualcosa. rigiriamo. Va bene, ci Esatto, vediamo anche domani in via Enrico grande. Cialdini 11 alle ore 18 con l'aperitivo e poi alle ore 20, insomma, questa iniziativa con questa raccolta di testi tra i due fuochi che si può trovare sul sito autistici.org/distrozione, scrivendo magari su Google distrozione tra i due fuochi, si riescono a reperire tutti questi testi. dove ci sarà appunto un dibattito domani a riguardo, e poi ci sarà la cena Bella Vita a seguire. Va bene, ti ringraziamo. Esatto. Un abbraccione Bella. grosso grosso, e ci vediamo domani sera. Ok, grazie a te. Mi Perfetto. raccomando, venite a trovarci. Io vengo puntuale, che poi devo andarmi ad allenare, quindi lo sapete già, il martedì è così, però il martedì ci sto fino a una certa. Dai, perfetto, buona Ok. serata. Dai, ciao ciao. Ciao, ciao, grazie alla disponibilità. Ciao, ciao. E allora continuiamo un po' di fretta, che siamo un po' in ritardo appunto con la scaletta. Ora ci sentiamo un pezzo come un ninja degli Sticcazione a delinquere, perché i compagni e le compagne, i compagni ex di Branca si sono mossi veramente come dei ninja nella rioccupazione di questo spazio. E quindi ci sentiamo questo bel pezzo degli Sticcazione a delinquere. You want to fight over her. Sangue per le strade, mosse di karate, arti marziali, colpi di tai chi da ninja contro capitali a 9-0. Lascio crisantemi ai corpi di avversari morti sui tatami. Non perdono come la Yakuza con gli infami. Barricati armati, ribelli molotov e sciabole. Come Takamori la mia schiera affila shuriken. Istiga delinquere all'ottavo dan, con la forza dei guerrieri contro i nuovi Genghis Khan. Tecnica mistica da cabala sul tempo, da tempo. Combo di rime da combattimento come il Ken. Avanzo contro mezze tacche da guzzini, birri assassini. Con l'arakiri li finisco come i Ronin. Come un ninja combatto la mia guerra, con la katana insanguinata per l'ennesima battaglia vinta. Sulla strada mosse di Kung Fu per la mia causa. Lo vivo ai miei dentro al tempio su una barricata. La mia lama trafigge il corpo del nemico. La rivoluzione con le rime tecniche d'aikido. Schivo i vostri colpi, segni del combattimento in faccia. Lotto fino a quando la tua legge sarà carta straccia. Come un ninja combatto la mia guerra, con la katana insanguinata per l'ennesima battaglia vinta. Sulla strada mosse di Kung Fu per la mia causa. Lo vivo ai miei dentro al tempio su una barricata. La mia lama trafigge il corpo del nemico. La rivoluzione con le rime tecniche d'aikido. Schivo i vostri colpi, segni del combattimento in faccia. Lotto fino a quando la tua legge sarà carta straccia. Vi interessa il Kung Fu? Sono qui per insegnarvelo. Avanti, la sua è lotta cinese pura. Era il colpo numero 4. Un'unghiata mancina del drago.